Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Vaughan è morto ieri nel suo ultimo scontro. Nel corso della nostra amicizia aveva fatto le prove della sua morte in molti scontri, ma il suo ultimo è stato proprio e semplicemente un incidente, l'unico. Guidata in rotta di collisione verso la berlina dell'attrice cinematografica, la sua macchina ha saltato il parapetto del cavalcavia dell'aeroporto di Londra ed è precipitata, sfondandolo, sul tetto di un autobus carico di passeggeri delle linee aeree. Quando un'ora più tardi mi sono fatto strada fra i tecnici della polizia, i corpi schiacciati dei turisti giacevano ancora sui sedili vinilici, come un'emorragia del sole. Questo era l'incipit di Crash di James Graham Ballard. È la seconda e ultima parte dell'ultimo volume della settimana, il volume numero 5 della settimana numero 21. Indovinate un po', è l'ultima stagione. È l'ultima stagione di Eclettica, questa 14ª sulle frequenze di Rock FM, come vado a ripetervi da un po' di tempo a questa parte. Ma perché è l'ultima stagione, in senso lato, della radio. Poi, per quanto riguarda la trasmissione, si troverà una nuova direzione in cui andare, ma si andrà, come continuo, fortemente a ripetervi. Per quanto riguarda questa seconda parte ci siamo già ascoltati due pezzi che vi vado a elencare. Our Brother the Native, questo è il nome della formazione, con As They Fell Beneath Us, e poi la appena chiusa Riverside da parte dei 13 Ghosts. Eclettica, che andrà avanti ancora per qualche settimana, sempre fra le 19 e le 20, oppure replicata in podcasting, dove le repliche ve le gestite voi a vostro piacimento. I dettagli su myspace.com/eclettica. Ed ora lascio lo spazio ad una formazione che proviene da Minneapolis. Loro si chiamano The Plastic Constellations, incidono per French Kiss, per la quale hanno pubblicato We Appreciate You, e questa è Stay That Way. We'll be right back. sleep in the clouds. We drift and dry up with doubts. I never knew what the simple things were all about. The rush of reeling around. We shift and sprawl and spread out. And I've never clung to such simple things until now. Sorry for everything that has happened, because in spite of what Mike says now, it is my fault, because it was my project. Everything had to be my way, and this is where we've ended up, and it's all because of me that we're here now, hungry and cold. And hunted. Yeah. padre di mio padre era un ministro metodista. Era un uomo alto, bello, dal tratto nobile, con una calda voce profonda. Mio padre era un ateo convinto e un grande ammiratore di Clarence Darrow. Saltava gli anni scolastici come gli altri ragazzini saltano le lezioni. Istruiva il gregge di mio nonno sul carbonio 14 e l'origine della specie, e a 15 anni vinse una borsa di studio per Harvard che avrebbe coperto sia retta che mantenimento. Portò la lettera di Harvard a suo padre. Si percepiva qualcosa nello sguardo di mio nonno, un pensiero che si materializzò nella sua bella voce, che era: è giusto offrire alla controparte una possibilità. Mio padre disse: che cosa vuoi dire? Quello che voleva dire era che mio padre non doveva rinunciare a Dio e scegliere la vita secolare, solo perché nelle sue dispute aveva la meglio su persone non istruite. Doveva andare ad una scuola di teologia e dare un'equa possibilità alla controparte. Se alla fine l'avesse pensata allo stesso modo, a 19 anni, sarebbe stato ancora perfettamente in tempo per andare al college. Questo era l'incipit de L'ultimo samurai di Helen DeWitt. E alla fine ci siamo arrivati, sicuramente del volume, sicuramente della settimana, non penso della stagione, perlomeno per quanto di mia conoscenza. Ci siamo appena ascoltati due brani, di cui uno ben noto e l'altro invece solo il secondo passaggio in eclettica, quello ben noto di cui tanto parlate anche scrivendo a giulia@radiorockfm.com e Northwestern Girls da parte dei Say Hi. Poi invece è stata l'Islanda con due nomi, uno conosciuto e l'altro sconosciuto. Quello conosciuto è quello di Jonesy dei Sigur Rós, che prestava la voce a Bix, fino all'altro ieri DJ. Ora si sta trasformando anche in musicista, DJ, musicista islandese, questo Bix, che sta per uscire con un album dal quale ho estratto Universal. E si chiude invece con un pezzo nuovissimo per Eclettica. Come sapete, io scopro magari anche in ritardo, c'è talmente tanta musica là fuori che a volte è difficile riuscire a rendersi conto dei bei dischi che escono. Questo addirittura era uscito nel 2006, è di una formazione olandese di Amsterdam, si chiamano Alamo Racetrack, e si chiude con Black Cat, John Brown. Black Cat John Brown, your time will come. Big yellow eyes, full moon is rising. Black Cat John Brown, your time will come. Windows and fences, you'll take no risk. Some berries from trees that reach the sky. You will get older, you can catch time. You'll have a good life and then you die. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 21, volume numero 5, indice, These United States, Sheer Water, Have a Nice Life, White Rabbits, Misophone, Our Brother the Native, 13 Ghosts, The Plastic Constellations, Say Hi, Bix assieme a Jonesy dei Sigur Rós, Alamo Racetrack. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.